Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti, di Leonardo Manera e Daniele Ceva. Buon sabato pomeriggio, anche questo sabato siamo qui come tutti i sabati, ma questa è la nostra penultima puntata, quindi ci potrete riascoltare, ascoltare ancora per una, per un'altra volta, poi forse ne faremo una anche dall'Expo, puntata straordinaria, però insomma siamo gli sgoccioli, ormai l'estate ha preso piede e noi siamo sempre qui, io Leonardo Manera insieme allo spiacevole Daniele Ceva. Io sono triste, Manera, sono triste. Perché lei con l'estate non viene più qui a Radio 24, si ritira. Mi ritiro a Vermezzo nella sua casa tutta di legno, quindi caldissima, dove non è caldissima, condizionatore, e suda in continuazione, sudo tantissimo. Io ho sentito la sua fidanzata e mi ha detto che il suo specifico dell'estate è vederla sudare sotto queste travi di legno. Lei si mette lì seduta e mi guarda sudare e questa è la cosa più erotica che si può consumare. Sono triste, però adesso queste sono le ultime puntate e noi faremo una festa di fine produzione, no? come è usanza fare nelle trasmissioni televisive e anche quelle radiofoniche. Sì, io cerco di portare anche qualche donna, perché noi siamo sempre carenti da questo punto di vista. No, al solito saremo io e lei e Marco Del Conte, il nostro autore, così in un bar a bere della cedrata. Qui nel bar che c'è qui accanto. Esatto, e tiriamo 3 o 4 coriandoli beige. Possiamo salutare la signorina barista albanese che ci dà sempre i caffè quando andiamo lì al bar. Sì, salutiamola. Come si chiama? Tsipras, anche lei. Questo nome è greco. Allora, noi abbiamo un grande ospite oggi. Chi è? È uno scrittore, cioè è un autore che fa l'autore comico in teoria, però poi ha scritto un libro, perché quando le cose vanno male ci si butta sulla letteratura. Faceva anche il mago prima. Noi tra poco lo presenteremo, prima diamo però la prima notizia che mi ha colpito, perché a Montebelluna, questo paese veneto, ti multano se non combatti le zanzare. A Montebelluna, Treviso, multe salate da 50 fino a 500 euro per chi non combatte le zanzare, in particolare la temuta zanzara tigre. Il comune del Trevigiano ha pubblicato un'ordinanza valida fino al 31 ottobre per cui se tu non solo le combatti ma tendi a creare quegli specchi d'acqua, quelle piccole paludi come a lei in casa a Vermezzo perché non fa le dovute pulizie, nelle quali le zanzare possono, come dire, proliferare, si viene giustamente multati fino a quanto? 500 euro. Ma perché, cioè, come fanno a capire se tu le stai combattendo meno? Intanto avevo un'altra domanda da farle. Mi dica. Ma la zanzara tigre è quella che si trovava dentro i formaggini tigre? Non è quella lì. Non capiamo il nesso, questa è la classica battuta che non ha nessun presupposto. Perché i formaggini tigre, se non sbaglio, avevano sempre dentro una sorpresa, o no? Forse era la zanzara. Non mi ricordo, che era fatta a forma di rotella, no? Beh, le rotelle erano le altre. No, sì, la scatola era rotonda come tutti i formaggini di quell'epoca lì in cui lei era già anziana. Era ghiotta mia nonna Rosa, mangiava sempre formaggini, lei parlava solo in dialetto, che mia nonna è morta Rosa. A 38 anni. È morta a 90 e rotti anni, mia nonna Rosa. Allora fan bene i formaggini. E diceva sempre, Nardo, cioè io Leonardo, mi chiamava Nardo, diceva dam in dialetto naroda, cioè una ruota di formaggino, così. Ok, quindi allora, ad esempio c'è, qua elenca una serie di posti dove possono annidarsi, diciamo, dove possono proliferare le zanzare. Per esempio? Tra cui ci sono dei copertoni, anche i copertoni. Uh-huh. Lei ha dei copertoni. Qui abbiamo bisogno del solito logopedista per Daniele Ceva. Un logopedista per Daniele Ceva. Copertoni, a me piacciono piace dire copertoni. E quindi insomma state debuttate dentro dell'insetticida. Allora il nostro autore Marco Del Conte ci suggerisce una bella battuta che dà spirito e brio al programma. Ecco, la dica lei che io ho vergogna. Contro la zanzara tigre c'è la zanzara Sandokan. Allora noi abbiamo fatto una telefonata anche per capire se i cittadini italiani si stanno preparando a combattere contro le zanzare. Sandokan. Giallo il sole, la forza ti dà. Vediamo se qualcuno ci ha risposto. Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del sole 24 ore, la conosce? Chi se conosco io, chi sei tu? Sì, io sono Leonardo Manera e questa è Radio 24, la radio del sole 24 ore, la conosce? No, mi dispiace, non conosco. È una radio che commenta delle notizie. No, non la conosco. Salve, parlate dopo il bip, vi richiameremo appena possibile, grazie. Buongiorno signora, la chiamiamo per sapere se lei si sta preparando a combattere le zanzare oppure se ci sono altre forme di animali che lei combatte volentieri. Se vuole richiamarci può chiamarci a Radio 24, la radio del Sole 24 ore, e noi aspettiamo, diciamo, sue notizie, perché ci teniamo anche umanamente a sapere qualche cosa di lei. Grazie comunque per aver partecipato anche via segreteria telefonica alla nostra trasmissione. Le auguriamo buona estate e speriamo che per lei l'estate sia proficua, piena di gioia, di bagni, di sesso e di felicità. Arrivederci, ci saluti il suo marito e o il suo amante. Come vedete, abbiamo trovato una segreteria telefonica, e allora, non avendo trovato persone in carne e ossa per tirare sull'atmosfera dopo la battuta suggerita dal nostro Marco Del Conte, diciamo invece un paio di battute sugli insetti. Per esempio, ho inventato un insetticida infallibile, spruzzato sulla pianta, questa perisce, gli insetti poi muoiono di fame. Bella questa, ti piace? Molto bella, sì, ci vorrebbe. Legarei questa cena. La mamma tarlo al figlioletto: se non mangi la finestra ti butto nella minestra. Questo fa ridere. Molto bello. Allora, è arrivato il momento di presentare il nostro ospite occulto, che si chiama Carlo Negri. Carlo Negri, buongiorno signor Carlo Negri. Buongiorno a voi. Ciao Leo. Noi abbiamo qui Carlo Negri perché il qui presente Carlo Negri ha scritto un libro che, come veste grafica, è bella. È una, diciamo anche perché è qui, perché noi ci occupiamo di avanzi, di cose. Quindi abbiamo qui Carlo Negri, autore di questo libro che probabilmente non resterà mai memorabile. Però ci dicono che invece è un libro che ha anche degli aspetti interessanti, e al suo interno, appunto, di questo libro c'è una busta, poi ci spiegherà sì. Perché. Ma perché hai scritto questo libro, Carlo? Allora, vuoi che ti do la risposta seria o la? Scusa, intanto diciamo il titolo di questo libro: Odore di mare, fil di ferro e gelsomini. Sì, è una storia d'amore. Costa anche 9,90 euro, è caro. Non è vero, non è caro. Non ho mai visto un libro così caro per così poche pagine. Poi anche il formato è ridotto, quindi è un po' una truffa questo. Un libro è una grossa truffa. Io sconsiglio a tutti: non acquistate mai il libro di Carlo Negri. Guarda, ti manca solo di infamare l'editore e poi le hai fatte tutte. Ma l'editore non si legge, probabilmente non ha voluto esporsi. Allora, di cosa parla questo libro discutibile, Carlo Negri? Allora, è una storia d'amore, è finita male. Lui e lei una mattina si lasciano. Uh-huh. Questo capita. E dal giorno dopo lui inizia a scrivere un diario in maniera quasi compulsiva, dove le scrive, le racconta tutto quello che non le ha detto quella mattina. Uh-huh. Il libro sono gli ultimi 15 giorni prima del loro nuovo incontro. Ecco, scusa, una domanda che si fa solitamente. Ma scusa, ma se si sono lasciati prima del loro nuovo incontro, in che senso? Nel senso che sono passati poi da quando si sono lasciati a quando si incontreranno. Si rivedono, passano 15 giorni? Sì, no, passano 4 anni. Ah. Però il libro racconta gli ultimi 15 giorni prima del loro incontro. Ah, del loro primo incontro? Del loro ultimo incontro. È già difficile da spiegare del questo libro, figuriamoci da legge. Io invece volevo fare una domanda che sicuramente, insomma, solitamente tutti gli ascoltatori vogliono sicuramente la trama, di solito bisogna almeno capire la trama di un libro. Manera, sto parlando con il ha ragione, non si capisce la trama. Allora, quindi questi 15 giorni raccontati in forma di diario. Dove lui è praticamente un flusso di coscienza, lui annota tutte le sue sensazioni, le sue emozioni, le sue paure, la voglia di rivederla. La cosa particolare è che di lei non si sa nel nome e nemmeno le caratteristiche fisiche. Il titolo riporta il profumo della pelle di lei, perché lui cerca in tutte le donne che incontra la sua lei. Quindi, attraverso quel profumo, questa pelle sa di fil di ferro. Era un po' arrugginita e pericolosa. Parlare di emozioni e sensazioni con voi è come dare i savoiardi ai maiali, veramente dalla stessa motivazione, veramente. Io ho visto dei maiali che si facevano proprio il tiramisù. Allora, nella quarta di copertina ci sono anche come si chiamano queste frasi che vengono messe in fumo? Allora, hanno un nome specifico. C'è Giuseppe Giacobazzi che dice: un libro bellissimo, dolce e amaro, è anima e asfalto, sogno e incubo. Quindi non si capisce esattamente cosa dica neanche Giacobazzi. Ma c'è anche Cristina Chiabotto che dice: il libro di Carlo ha in sé tanti profumi ma non mi convince. Non è vero. Lo dice Cristina Chiabotto. Non dice questo. Allora, Max Laudadio dice: il libro di Carlo non travisi però sto leggendo. Il libro di Carlo non mi piace. Proprio secco così. Sì, non mi piace. Allora, dice che il libro di Carlo è un arcobaleno in evoluzione. Oh, caspita, cioè, sì. Cosa vuol dire? Non lo so, nemmeno lui l'ha capito. Sono quelle però frasi parapoetiche. Esatto. Quindi 9,90 euro in tutte le migliori librerie come di mai, Caracas. Come mai Carlo hai deciso di scrivere? Tu che sei completamente nuovo in questo settore. O avevi già scritto altre cose? No, mai. No, in realtà, è la prima volta in che realtà, ti cimenti. Molte collaborazioni su libri comici, avevo voglia di... Quindi praticamente mai hai scritto. Libri comici sono una cosa terribile. Lo anche io ne ho fatto uno. Dei meri strumenti per guadagnare denaro, esatto, sonante per andare quello. Con prostitute come tu sei solito fare, Carlo Negro. Come mai ti sei cimentato in questo libro? Ma odore, guarda, di mare, fil di ferro e gelsomino. Gelsomini. Come mai? Perché avevo voglia di coltivare le mie malinconie, oh, cioè, lavorando sempre con i comici e facendo gli stupidi dalla mattina alla sera, quando uno arriva a casa, voi sapete bene di cosa sto parlando, hai voglia anche di alimentare l'altro lato, e quindi è partita questa idea di questa storia, di questo diario, e poi ho trovato in Alessandro Dell'Abe Editore un uomo talmente pazzo, sufficientemente pazzo da metterci dei soldi e pubblicare questo. Tra l'altro non vedente, vero? No. Vedete. Quindi salutiamo Carlo Negri che è stato con noi questo pomeriggio. Ringrazio, ricordo, visto che l'avete detto male più volte, Odore di mare, fil di ferro, Gelsomini. 9,90 euro, costa tanto. Non è vero, costa tanto. Non ho mai visto. Abe Editore, perché il mio editore mi dà 5 euro ogni volta che io pronuncio il nome della casa editrice, quindi Abe Editore. Abe Editore, qua sono 2 euro. Sono 2,50 euro che ce li smezziamo in tutte le librerie. E lei basta. Quanto ha? 10% sul prezzo copertino. Sì. Quindi a circa 1 euro. Esatto. 1 euro dovrebbe vendere 1 milione di copie per guadagnare. Ma me ne manca solo un po' arrivare al milione di copie. Cioè, il nostro autore dice le venderà direttamente al macero. Stiamo facendo una buona pubblicità per questo prodotto, quindi avremo anche noi una percentuale sul prezzo di copertina. Salutiamo Carlo Negri che tornerà. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi ospitato, se avete piacere richiamarmi a posto così. No, come se l'avessi accettato, veramente. Ciao Carlo. Ciao ragazzi. Ciao Carlo. Ciao, grazie. Ciao. E allora, dopo aver presentato in modo direi particolarmente professionale questo libro che si chiamava Odore di mare, fil di ferro e gelsomini. Gelsomini di Carlo Negri, con un commento di Cristina Chiabotto che è perplessa, leggiamo sulla quarta abbiamo la nostra rubrica che è Scherzi telefonici venuti male. Pronto? Buongiorno, sono presidente della Grecia, Tsipras. Siccome siamo in crisi economica, volevo sapere se può mandarci soldi per evitare di fallire. È un scherzo o... No, no signora, sono presidente della Grecia, Tsipras. Volevo sapere, diamo conto corrente, se può fare... Pronto, buongiorno, sono il presidente della Grecia, Tsipras. Siccome Grecia sta fallendo, stiamo cercando contributi economici, diamo numero di conto corrente. Ma lei è Tsipras? Tsipras. Ma credo che sia veramente un troppo al culo, sa? Stiamo fallendo, ci dia aiuto. Ma fra poco vi diamo dietro anche noi, perché anche l'Italia è messa male. Ma anche lei sa che se Grecia esce da euro, poi tutta Europa va a catafascio. Quindi se lei ci aiuta, stiamo telefonando a cittadini di tutta Europa. Ringrazio, ma non faccio niente. 5 guarda, euro, perché... solo 5 no, euro. Non ci credo alle sue, che lei sia il presidente della Grecia. Ma io è presidente di Grecia, no. Tsipras. Se lei dà solo 5 euro. Guardi. Vuole che io parla greco anche per convincerla. No, se lei parla greco io non capisco niente. Mi dispiace, guardi. Anche mi sia bene, tanti auguri. 4 euro. 3 euro. Tsipras. Sì, ma era lei fa sempre il filippino. Qualsiasi personaggio lei debba imitare fa un filippino. Tsipras. Però possiamo dire che questo è venuto bene, perché è venuto male, perché hanno capito che era uno scherzo. E quindi è venuto male. Quindi stiamo migliorando. È fallita come cosa. Sul finire, sì. Se siamo scherzo telefonico è venuto male, viene bene. È come in algebra, no? Meno per meno da più. Quindi scherzo telefonico venuto male che viene male, meno per meno da più. E dopo questa dimostrazione matematica andiamo col. Avanzi di Manera. La rassegna stampa che non ti aspetti. Allora, dopo il traffico siamo ancora qui. Noi vi ricordiamo per la penultima volta il nostro indirizzo mail, che è avanzidimanera@radio24.it. Vi ricordiamo che la unica mail che abbiamo ricevuto ci è arrivata da Marano, in provincia di Napoli. Se volete battere Marano, mandateci una mail, perché è l'unica arrivata fino adesso, in 21 puntate. Sì, 21 puntate ne è arrivata una da Marano. Le sa qual era il tema della mail? Perché avete parlato di Marano? Sì, e lei è la quinta volta che ripete questa cosa, questo aneddoto su Marano. Marano. Allora, che adesso in Italia tutti dicono: ah, Marano, dove mandano le mail? C'è il cartello: benvenuti a Marano, paese della mail. E invece è una parola che non si usa più, è Marrano. Sei un Marrano, si usava una volta. Beh, io no, quando sono nato io non si usava già più. Anche Monello. Monello, no. Sì. Sai cosa mi è capitato? Aneddoti senza pretese. Ok, un'altra. Aneddoti senza pretese. Ok. Dunque, io da qualche mese che non sono più fidanzato, come lei ben sa. Allora mi sono di nuovo sul mercato come appetibile single. Beh, insomma, adesso sull'appetibile possiamo discuterle, però vada avanti. Qualche tempo fa ero a fare una festa per una radio, tra l'altro, non Radio 24, un'altra radio. C'erano anche diverse ragazze. Perché Radio 3, sì, ma Radio 23. C'erano diverse ragazze. Io faccio il mio spettacolo, alla fine vado a cambiarmi in camerino. Arriva una ragazza completamente ubriaca. Sì. Comincia a spogliarsi mentre io ero lì in camerino e mi dice: vieni qui, sei un monello. Sono quelle classiche frasi proprio che eccitano immediatamente. Vieni qui, monello. Mi diceva monello e intanto si spogliava. Si è tolta la gonna e aveva le calze, quelle, il collante color carne con delle grandissime smagliature in zona inguinale. E mentre io vedevo le smagliature mi diceva monello e cercava di... Ma poi com'è andata a finire? Mi sono talmente amareggiato che l'ho rivestita e siamo andati di sotto dove c'era la band che suonava. Lei ha iniziato a ballare, io ero un po' da parte, ma ogni tanto tornava da me e mi diceva monello. Aneddoti senza pretese. Vabbè. Allora, a proposito di rapporti sessuali ed amore, la notizia è questa, ricaviamo da dagospia.com. La dolce metà. Allora, mollato dalla fidanzata, taglia in due tutte le cose che avevano condiviso. Una parte la invia a lei, l'altra la vende su eBay. Quando si dice la condivisione dei beni, cosa ha tagliato questo signore? Ha tagliato tutto. Allora, per 2 sterline potete comprare mezza macchina, mezzo televisore, mezzo iPhone 5, mezzo disco dei REM, mezzo divano, mezzo letto, mezza bicicletta e mezzo orsacchiotto. Ma perché dovremmo comprare? E anche mezzo MacBook Pro. Però sa chi fu, se non erro, fu Yoko Ono per prima, non lo so, comunque fu famosa questa azione di Yoko Ono, che tagliò a metà un armadio appartenuto per metà a John Lennon e per metà all'ex moglie di John Lennon. È stata oscillante signale, è un gioco di parole anche che non arriverà mai, perché ante sulle ante dell'armadio è una sorta di aneddoto senza pretese. È un aneddoto senza pretese, andate a leggere su Google senza pretese. Battute sul divorzio. La follia è spesso causa di divorzio, ma più spesso è causa di matrimonio. Questa è di Wilson Mitzner, scrittore statunitense. Diciamo altra battuta. Un uomo e una donna molto ricchi divorziarono. I loro avvocati vissero a lungo felici e contenti. Questo l'abbiamo detto 7-8 volte. Sì, almeno, è Marco del Conte che le mette perché ci fa degli scherzi. Ma se voi come Ceva volete fare più sesso, cosa dovete fare? Anch'io, tutti vogliamo fare più sesso, perché in quel momento in Francia si chiama l'appetit mort, l'orgasmo per l'uomo, lo sa? L'appetit? Mort, la piccola morte. Ah, beh. Perché in quel momento si muore, c'è un senso di morte. Mm-hmm. E quindi vogliamo provare quell'emozione che ci dà il senso dell'infinito, che tende all'infinito, e questa è la cosa bella dell'orgasmo, capito Ceva? Ho capito. Che nel momento culminante... Che si prova anche con lo starnuto, lo sapeva? Tende all'infinito. È vero, è stato studiato che lo starnuto in quel micro istante dà le stesse sensazioni di un orgasmo. Allora, io l'anno scorso, quando facevo la trasmissione Platone con Alessandro Milan, spiegavo che i corpi cavernosi dei genitali maschili sono fatti dello stesso materiale di cui sono fatti i turbinati del naso. Ah, quindi vede che c'è un nesso. C'è un nesso. Quindi una volta, quando le donne arrivavano vergini al matrimonio e si faceva molto sesso proprio durante la luna di miele, si infiammavano i turbinati dal naso, perché venivano stimolati, diciamo per analogia, dallo stesso, essendo la stessa materia dei corpi cavernosi. Ha capito? Ho capito. Solo che quando facevano la trasmissione con Alessandro Milan era una cosa molto più di livello rispetto a quello che fa con Ceva. Allora, la notizia, caro Ceva, è questa: vuoi fare sesso? Metti la televisione in camera da letto. Lei ce l'ha la TV in camera da letto? No, non ce l'ho. È stato fatto questo sondaggio per cui chi ha la televisione in camera da letto fa più sesso, ma anche spenta. Questo che non si capisce esattamente. Basta avere l'oggetto lì, la TV. Sì, no, sì. La verità è che quando tu guardi la televisione in camera da letto, automaticamente sei vicino all'altra persona, se c'è anche lei. Allora, dopo un po' ci si comincia a toccare, si comincia a carezzare il pelo, andare qui e toccare. Se non mi tocchi, veramente, a parte che sono in radio e nessuno vede. Ma senta, ad accarezzare l'ombelico, a scendere verso la zona inguinale. Poi la smetta, per favore. Quindi cercare. La denuncio per molestie sessuali sul posto di lavoro. Questa intimità si crea, e quindi se siete insoddisfatti della vostra vita sessuale potete provare a mettere una televisione anche di pochi pollici. Sì, ma che basta, girando ci si ritrova ad esempio questo bel faccione di Bruno Vespa e subito dopo un po' io posso certificare che è vero. I rapporti sessuali più frequenti li ho avuti quando avevo la TV in camera. Certo, perché lei guardava la televisione mentre la sua lei faceva l'amore con un altro. No, perché ci si avvicina, è così, è inutile negarlo. Allora, abbiamo anche delle battute di successo. Non ne ho sottolineata nessuna perché le battute di successo intanto sono le stesse che ti ho detto 8 volte. Allora, l'aspirina è un potente anticoncezionale, basta tenerla stretta fra le ginocchia. Bill Barner, sassofonista statunitense. Non mi piace questa battuta. No, che 2 settimane fa sono stato coinvolto in un buon esempio di contraccezione orale. Ho chiesto ad una ragazza di venire a letto con me e lei mi ha detto di no. Di Halle, insomma. E poi l'ha detto anche Beppe Grillo, tanti hanno detto questa battuta, insomma. Va bene, noi abbiamo fatto una telefonata per chiedere il vostro parere su questo fatto della TV in camera che stimola e induce e facilita i rapporti sessuali. Sì. Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. No, signore, la ringrazio, ma non mi interessa. No, ma non le vendiamo niente, è solo un parere. Non mi interessa, grazie. No, dicevo che non le vendiamo niente, le chiediamo solo, non mi interessa solo, solo un parere rispetto alla notizia, se gentilmente. Ma non mi interessa, specialmente a quest'ora, grazie. Se è vero che chi ha la televisione in camera fa più sesso. Che cosa? Allora, la notizia è che chi ha... Io ho capito, non me ne frega niente, le ripeto, guarda. Mi scusi, non mi importa. Chi ha la TV in camera da letto fa più sesso? Lei lo fa ogni tanto, le capita con la televisione? Arrivederci. Le chiedevo che sto per chiudere, arrivederci. Sì, le chiedevo se con la televisione accesa. Vedete che la nostra telefonata ha stimolato molti, molti commenti interessati. Allora, ultima notizia velocissima e poi la rubrica di Daniele Ceva e gli avanzi di poesia. Allora, la notizia è questa: Dago Spia, un pacco contro lo stupro. Le donne thailandesi hanno un nuovo trucco: le mutande col pisello finto incorporato per sembrare un trans e scoraggiare i molestatori. Cioè, praticamente lei, come solito fare a Vermezzo, va, sì, aggredisce una donna. Vedo che ha, e allora mi si ritrae. Vedete, mi ritraggo. Quindi mi faccio un dipinto. È la stessa cosa, mi ritraggo, si ritrae. Ha lo stesso senso. E quindi, secondo lei funziona questa tecnica? Beh, insomma, direi che è sempre un bene provare e cercare di nuovi metodi. Sai quale sarebbe il vero colpo di scena? Che lui spoglia questa donna, lei è sotto il pisello finto, poi si toglie le mutande e anche il pisello vero. E dopo, e dopo non rapporto. Una specie di matrioska di piselli. Ma senta, però, in effetti, la notizia dice anche che si rischia di attrarre chi ha la febbre del ladyboy, cioè chi piace andare con chi in effetti il pisello ce l'ha davvero. Ma sai che io ho lavorato per un periodo per con un ladyboy anche. Ho fatto spettacoli per un periodo con un transessuale ed era molto ricercata questa ragazza, perché si capiva, sì, era in tutto e per tutto una donna, molto bella anche, però le due cose classiche da cui si capisce che era un uomo sono le mani, che di solito sono più grandi, e il pomo d'Adamo. Ho capito. Aneddoti senza pretese. Questo rientra a pieno titolo in aneddoti senza pretese e anche tristi, direi. Era triste. Che parlo di pomo d'Adamo. Allora, siamo arrivati alla nostra immancabile rubrica, le idee di Daniele Ceva, ovvero idee frizzanti per nuovi palinsesti televisivi. Le idee di Daniele Ceva. caro Manera, cari ascoltatori, oggi parliamo, cari ascoltatori, è vecchissima come frase, però l'idea che propongo questa settimana a tutti i produttori televisivi per rinnovare un po' il loro palinsesto e renderlo meno noioso è chirurgia olé. Chirurgia olé, in cosa allora, consiste? Lei ha mai visto tipo killer karaoke? No. Allora, gente che canta al karaoke e vengono a un certo punto disturbati con delle cose estreme, tipo gli vengono buttati addosso litri d'acqua, degli scorpioni, dei serpenti, e loro devono continuare imperterriti a cantare. Chirurgia olé sono interventi di neurochirurgia fatti nel mezzo di una corrida. Mi spieghi meglio, cioè, mentre c'è la corrida, quella vera coi tori, esatto, in mezzo c'è una sala operatoria con un neurochirurgo che sta operando al cervello. E la parte divertente di questa sua idea dov'è? Beh, non è divertente, è emozionante. Lui deve portare a termine il suo intervento delicatissimo, nonostante attorno ci sia questo toro che da un momento all'altro potrebbe incornarlo e mandare all'aria tutto l'intervento con nefaste conseguenze per il paziente soprattutto. Pensate che nella vita Daniele Ceva fa veramente l'autore televisivo, questo vi dà la misura della crisi ormai endemica della televisione italiana. Allora finiamo come sempre con il nostro allegro avanzo di poesia. L'amore non esiste. Aveva sempre lo stesso incipit. È un fiore che lentamente appassisce mentre la ridico. L'amore si intitola logopedia. L'amore non esiste. È un fiore che lentamente appassisce mentre inesorabile si consuma il sentimento, ogni giorno più stanco, più fiacco, più consunto, finché nel primo bacio resta solo la traccia di un amore senza parole, di un amore ormai muto. Non è la stessa dell'altra volta, no? No, è diversa, sono vinci. Però noi vogliamo sempre finire con un po' di allegria, quindi ci sembra certo, giusto. Certo. Siccome stasera è sabato sera, grande allegria, birrerie, sesso, insomma, diamo un motivo droghe. Per cui uscire e andare a divertirsi molto di più. Adesso c'è Marta Cagnola con il sabato del villaggio. Noi salutiamo Guido Scotti, il nostro curatore. Grazia Gala, la nostra curatrice. Paolo Corleoni, il nostro regista di oggi. Marco Del Conte, il nostro autore. Daniele Ceva. Leonardo Manera. Adesso c'è Marta Cagnola. Ciao.